emergency. Spazio estate viaggi. Sesta puntata. Da Salta alla Quiaca, Argentina. Y al racataca, me fui pa'l baile y no fui pa' la casa. Cerveza, cerveza, quemando la brasa, moviendo la carne, lo malo se pasa. Que soy una negra y que soy desquicia. Me gusta moverlo pa'lante, pa' atrás, gozadera, baby. Lo bailo crazy, con las ladies, ya verás. Es que yo soy soltera. Spazio estate. Spazio estate. E spazio estate. Spazio estate. Yo soy soltera. Un programma Don Pierce sulla frequenza di Radio Onda Adulta. Oh yeah, baby. Y estamos conectados con Espacio Estate. Con The Boss, The Warrior Queen del barrio, ey. Atropellando casi siempre la ley. Para el fariseo ya está todo ok. Y esta tu servidora tiene la misión de hacer que rompa el suelo con la batidora. Que del perreo acá llegó tu profesora. Al que no le gusta ya sabe, vaya en bora. Que su fiestera se rumora. Yo soy un caro saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Spazio Estate Viaggi. Sesta puntata della seconda stagione di questo format estivo che vi terrà compagnia per i prossimi 90 minuti. State ascoltando Soltera di Miss Bolivia con Katsu, pezzo del 2020. Miss Bolivia è psicologa, cantautrice, produttrice e DJ originaria di Buenos Aires, che fonde stili come cumbia, hip hop, dance e reggae. Questa canzone Soltera è un inno alla libertà e all'autonomia. Dice Miss Bolivia, in questi tempi difficili in cui realtà e legami sono mutati per tutta l'umanità, la comunità, la danza e il ricongiungimento rappresentano un mezzo per guarire e potenziare se stessi. Vi presenteremo a breve il sommario di questa puntata di Spazio Estate Viaggi, prima però qualche messaggio vocale ricevuto in settimana. Ciao Mike, ho appena ascoltato la puntata, quella su Piglia. Secondo me è molto figa, sai? Cioè mi sembra che comunque tieni anche presente un po' della cronologia delle opere. È un po' magari specialistica come cosa, perché per dirti avevo letto solo Respirazione Artificiale e avevo dato un'occhiata a Critica e Finzione, che è quello che tu hai fatto la prefazione, no? O la traduzione, è quello lì, che è molto figo. Poi mi sono preso un libro di Bolaño che devo ancora iniziare, il suo ultimo romanzo, però adesso volevo iniziare a causarlo, a leggerlo un po'. Volevo provare, ho provato ad ascoltare la quinta puntata su Bolaño, ma ancora non riesco a trovarla. Secondo me è tutto molto bello, bravi, davvero, mi è piaciuta. Ciao. Molto interessante anche il discorso che hai spiegato un po' delle zone umide, e anche qua in pianura padana ce n'erano tantissime di questi acquitrini. Dicevano appunto che era un ecosistema importante, ricco di flora e fauna, ricco per gli anfibi e anche tantissimi altri insetti, e che ormai qua in pianura padana non è niente, lì non lo so. Dispiace molto anche per il rio Paraná, che è in grossa crisi, ma purtroppo disastro come dappertutto. È difficile, come ti ho detto, Tile, è difficile essere coerenti. Tutto un circolo, anche a me a volte mi fa delle domande, ho dei sensi di colpa. Cos'è la roba giusta? Punto di domanda. Non devo ancora trovare risposta. Ciao, abbraccione. Oggi pomeriggio ho ascoltato la quarta parte, è stata molto bella, mi è piaciuto molto, ecco, e poi le emozioni, che è sempre bello sentir raccontare proprio delle emozioni che si provano nelle varie esperienze, perché in qualche modo ti coinvolgono e quindi ti fanno sentire anche la bellezza che traspare, ecco, dai tuoi racconti. Ciao! Grazie mille per il tuo messaggio, che mi serve per migliorare. Grazie per i messaggi, continuate a scriverci e a inviarci i vostri vocali sulle pagine Facebook e Instagram donpears.it, sulle quali troverete anche le storie e i video del viaggio in bici. Quando te veo, los ojos se me ponen chiquitico, cambia mi revolución bien rapidito, y este es un subibaja que... Procediamo quindi con il sommario di questa puntata. Nella prima parte proseguirà il racconto del viaggio in bici di Giacomo, cicloviaggiatore senza esperienza, che è partito da Buenos Aires a febbraio ed è arrivato a Lima dopo 3 mesi e 5.000 km. In questa puntata Giacomo lascerà la città di Salta fino a raggiungere La Quiaca, piccola cittadina a 3.000 metri sulla frontiera con la Bolivia. Nella seconda parte vi proporremo l'intervista a Silvia Rivera Cusicanqui, sociologa, attivista, teorica e storica contemporanea boliviana. Si è occupata, tra i suoi numerosi studi, di teoria anarchica e cosmologia quechua e aymara. Oggi ci parlerà dell'organizzazione nella quale milita attualmente, il collettivo XI. Infine, nella terza parte di Spazio Estate Viaggi, la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano sulla cultura dell'America Latina. In questa puntata Mirko ci parlerà di Cristina Peri Rossi, scrittrice uruguaia molto amica dell'argentino Julio Cortázar. Esule in Spagna a causa della dittatura militare nel suo paese, nelle sue opere spiccano i temi dell'esilio, della sessualità e della condizione della donna. Nel 2018 ha ricevuto il premio Cervantes, il più prestigioso per gli scrittori di lingua spagnola. Ancora un po' di musica, poi la prima parte di Spazio Estate Viaggi. Buon ascolto sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. De tu distancia la mía, hay una cruz de madera, y una nostalgia del canto y un bailar de chacarera. Un bailar de chacareras bajo este cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y el sayayo. Dormir baja la noche sobre la espuma del río, en la saga de un ochogo para no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra amara de contarte lo mucho que te ha añorado. Thank you. Nell'ultima puntata di Spazio Estate Viaggi vi ho raccontato delle prime importanti salite che ho intrapreso iniziando a salire la Cordigliera Andina. Per la prima volta nella mia vita sono riuscito a salire in bicicletta fino a 3000 metri. I paesaggi spettacolari, le nuove amicizie e soprattutto qualche giorno di riposo mi hanno aiutato a dimenticare le grandi fatiche fatte per portare i quasi 60 kg di bagagli e di bici in alta quota. Sono poi risceso a 1000 metri, a Salta, lo scorso 8 marzo. In questa città del nord-ovest dell'Argentina ho partecipato alla grande manifestazione transfemminista in città e ne ho approfittato per conoscere alcuni movimenti femministi locali. Il mio racconto di oggi ricomincia da Salta, da dove sono ripartito, fino ad arrivare a La Quiaca, città di frontiera con la Bolivia. Sono Giacomo, cicloviaggiatore inesperto. Ho deciso di partire in bicicletta da Buenos Aires a inizio febbraio. Non sapevo dove sarei arrivato. Dopo 3 mesi e 5000 chilometri sarò a Lima. Dopo 2 giorni dalla grande, partecipatissima, emozionante manifestazione transfemminista dell'8 marzo, riprendo la bicicletta e riparto. Mi trovo nel nord-ovest dell'Argentina, nella provincia di Salta. Ho già pedalato oltre 1500 km in un mese da quando ho lasciato Buenos Aires. All'inizio del viaggio avevo puntato ad arrivare a Salta. Mi ero riproposto di rivedere successivamente l'itinerario in funzione delle mie forze e della mia voglia di continuare. Ora che sono arrivato alla mia prima grande tappa, non ho nessuna voglia di fermarmi. Mi manca una sola provincia argentina, molto piccola, Jujuy, per poter giungere alla frontiera con la Bolivia. Da Salta decido quindi che proverò ad arrivare alla Paz, distanza, secondo le mappe, circa 1500 km. Il percorso è interamente sulla catena montuosa delle Ande. Le altitudini medie saranno molto alte, quasi sempre superiori ai 3000 metri. Non sarà facile, mi dico, ma in caso avessi grossi problemi ad arrivare a destinazione, posso sempre caricare la bici su un camion o un autobus ed abbandonare l'avventura. Riparto entusiasta verso la mia prossima grande meta. Alla mia partenza da Salta piove abbondantemente. Fino ad ora sono stato molto fortunato con il meteo. Ho sempre pedalato con il sole, quasi mai troppo caldo e solo un paio di giorni con la pioggia. Esco dalla città, la strada è molto bella e poco trafficata, anche se molto sporca in alcuni punti. Alcune piccole frane hanno infatti ricoperto certi tratti della carreggiata, senza però impedire il transito. La pioggia però è troppa. Dopo pochi chilometri sono bagnato fradicio ed inizio ad avere freddo. Mi fermo dopo 30 chilometri in una piccola località che si chiama La Caldera, che fu, scoprirò in seguito, anche una tappa del viaggio in motocicletta di Che Guevara. Mi fermo sotto a un portico per decidere il da farsi. Non vorrei piantare la tenda. È appena iniziato il pomeriggio. Il terreno è pregno d'acqua e continua a piovere a dirotto. Telefono quindi ad alcuni alberghetti e locande del posto, ma sono tutti pieni oppure troppo cari. Ho freddo. Per tentare di scaldarmi bevo un paio di mate, un infuso di erbe molto consumato in Argentina. Telefono ad un'amica di un amico che ho conosciuto a Salta e le spiego la situazione. Molto gentilmente si mette subito al lavoro per svoltarmi una soluzione. Dopo pochi minuti mi avvisa che posso andare a dormire da un amico della madre che vive in paese. È così che arrivo a casa di Juan Ahuerma Salazar, un poeta anarchico bohemien con il quale, mi dicono, mi troverò bene. arrivo a casa di Juan, che mi accoglie con un caloroso abbraccio. Ha più di 70 anni, una bella faccia gentile, la fronte pelata, ma con una corona di ricci folti capelli bianchi. Mi infilo subito nella doccia che, anche se è fredda, mi fa riprendere. Chiacchierò poi con Juan. È uno scrittore saltegno, laureato in psicologia all'Università Nazionale di Cordoba. Ha iniziato a scrivere alla fine degli anni 60, attraversando tutti i generi. È autore di romanzi, poesie, saggi, opere teatrali, racconti e testi folcloristici. Juan mi fa sentire a casa. Nonostante l'età, è ancora molto preso per il suo lavoro ed è sempre al computer a scrivere, anche dopo cena. Mi consiglia l'ascolto di un gruppo per il quale ha scritto i testi delle canzoni. Questo è un breve assaggio di Pasa el Poeta, scritto da Juan Aguerma Salazar e da Marcelo Buontempo, suonato dal quartetto di Rubén Chamé. Gattusa. Con una margarita in la sabbiola, tristissima venías de bailar, tu tacolear moviéndome la cola por la vereda, mi gata sentimental. Los besos que traías en el escote del fantasma que anda por tu zaguán, la luna en el balcón del despelote, los gatos por los techos de San Juan. Decías, siempre decías, la vida es la moneda que se va, la muerte un agujero en las medias, y entre los dos la vamos a gastar. Tus piernas largas mezclando la baraja, jugándole la lluvia al bulevar. Dame suerte, dame suerte, que esta noche te llevaré a cenar. La muchachada quiere verte y aplaude cuando los miran pasar. Del interior llegué para quererte, a Montmartre me voy para olvidar. Del puerto del amor llevo el julepe y tiemblo cuando me embarca el amor. Gatusa, mi gatita rantifusa, si a mesa tercer mundo en la estación llevas mi corazón bajo la blusa, de noche laburás en el Colón. Passo la notte a casa del poeta Juan Aguerma e l'indomani riparto, un po' triste, poiché mi rendo conto di aver appena conosciuto un personaggio di un certo calibro, che però sto già lasciando. Non piove più. Passo da una strada meravigliosa, piccola, poco frequentata, totalmente in mezzo alla natura, umida, in leggera discesa. Questa parte di Argentina è decisamente più turistica dell'immensa pianura che avevo percorso da Buenos Aires prima di arrivare alle montagne. I paesaggi sono spettacolari e cambiano repentinamente. I turisti in realtà non sono numerosissimi, soprattutto quelli provenienti dall'estero. Il Covid e le conseguenti restrizioni sono ancora ben presenti e viaggiare non è ancora semplice come una volta. I miei incontri più intensi sono con altri cicloviaggiatori. Si tratta di brevi momenti, ma, come quello che mi capita di avere con Nancy, preziosi. La incrocio in bici, ci fermiamo entrambi e chiacchieriamo pochi minuti. Non scorderò facilmente Nancy. Ha compiuto 60 anni ed ha iniziato a pedalare qualche settimana fa con una di quelle bici cinesi economiche che cercano di imitare nella forma e nei colori le grandi marche che si vendono in tutto il mondo. sono subito impressionato per la spensieratezza e la voglia di viaggiare di Nancy. Anche lei dorme spesso in tenda, o talvolta in alcuni santuari o luoghi sacri che si ferma a visitare. È infatti appassionata cicloturista religiosa. Che mezzo la bicicletta! Può farti felice ad ogni età, anche dopo i 60, come sta facendo felice Nancy, determinata, coraggiosa, tenace cicloviaggiatrice argentina in solitaria tra le strade di questa regione andina. Che meraviglia! Continuo a pedalare diversi giorni. Passo da San Salvador de Jujuy, Tilcara. La Bolivia è sempre più vicina. Tra pochi giorni ci entrerò. Sono molto eccitato. Accelero. Gli ultimi tre giorni di Argentina li passo con Rodrigo, cicloviaggiatore di Buenos Aires che supera un giorno nei pressi di Humahuaca, piccolo paesino della provincia di Jujuy. È un grande Rodrigo, chiacchieriamo un momento ed è subito amore, l'affinità è totale. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime ce matin. Pedaliamo insieme, ognuno al suo ritmo. A volte ci perdiamo di vista per alcune decine di chilometri, poi ci ritroviamo. Passiamo tre giorni e due notti insieme. Con lui vedo scattare il contachilometri a 2000. Questi sono i chilometri che mi separano da Buenos Aires. È un altro grande momento di soddisfazione. Sempre con Rodrigo, seguendo la strada principale verso la frontiera, arrivo in un paesino chiamato Tres Cruces, 3700 metri sul livello del mare. Non sono mai salito così in alto con la bicicletta. Mi faccio scattare emozionato numerose fotografie. Fortunatamente, le salite fino ad ora sono state abbastanza dolci, seppur costanti. È una zona di grandi altipiani, strade dritte, che sembrano infinite e nessuna presenza umana intorno. Il clima è secco, ma non fa molto caldo, essendo ormai la fine dell'estate. Il paesaggio è caratterizzato da cactus, cespugli, grandi montagne brulle, color tabacco, ocra, ma anche terra rossa, giallo scuro, senape. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime et puis voilà, on s'aime. Con Rodrigo cerchiamo una stanza e troviamo alloggio da un abitante di Tres Cruces, una camera molto spartana che paghiamo un paio d'euro. La sera il signore che ci ospita invita alcuni amici. Mi rendo conto che tutto sta cambiando. L'Argentina europea, bianca e ispanofona è finita. Mi trovo con un gruppo di uomini dalla pelle ruvida, scura, gente di montagna, delle Ande. Sento che qui esistono altre frontiere, quelle della cultura andina, cui epicentro, incrocio, origine e terra di scontro sarà la Bolivia. Uno di questi amici si mette alla chitarra. Dice di cantare in lingua aymara, una delle lingue più parlate delle Ande, insieme al quechua. Questa canzone l'ho registrata quella sera. Kamapibunataka. tati tu gagaru tarike ani buni uyu kaniti chukamapi munasta. Riparto la mattina con il mio nuovo amico Rodrigo verso la Quiaca, paese di frontiera con la Bolivia. Arrivo nel pomeriggio e corro subito a cercare un luogo dove farmi un test PCR, obbligatorio per entrare nel paese. Fortunatamente risulterò negativo. Preparo i documenti che le autorità di frontiera esigono. Devo stampare in due copie, passaporto, certificato delle vaccinazioni contro il Covid, test PCR negativo, assicurazione per l'ospedalizzazione in caso di Covid, dichiarazione giurata per la dogana argentina e quella per la dogana boliviana. Ho tutto. Passo l'ultima notte argentina a La Quiaca. Domani entrerò in Bolivia. È già tempo di un piccolo bilancio. Il mio viaggio in bici è iniziato a Buenos Aires l'8 febbraio. Ho percorso 2000 km in Argentina. I primi 1500 totalmente in pianura. Gli ultimi 500 tra i 1000 e i 3800 metri sul livello del mare. In circa un mese e mezzo ho pedalato per 26 giorni. Significa che in media ho percorso 76 km al giorno. La tappa più breve è stata quella che vi ho raccontato, tra la Salta e la Caldera. Quel giorno ho percorso solo 30 km, poiché ho dovuto fermarmi a causa del freddo e della forte pioggia. La tappa durante la quale ho pedalato di più è stata a Ruffy Malbran, 125 km di pura pianura. Già come lo la spinaca, già come lo per le pinine. Sì, la pelletina. Bueno, todo viene nella pasta. Sì. Sono felice. Un'amica dall'Italia mi inoltra una frase che non so dove abbia letto, ma è decisamente appropriata e mi commuove. Il suo messaggio dice: il grande desiderio di viaggiare è animato dalla curiosità di conoscere nuove terre, nuove culture, ma anche dalla voglia di riempire il cuore di bellezze, di stupore, di silenzioso rispetto per questo mondo meraviglioso e per cercare equilibrio e serenità interiore. L'Argentina è un paese meraviglioso. Nella sua enormità basta scegliere un itinerario in base ai propri desideri di viaggio. Io ho visitato una grande parte di pianura e le montagne del nord-est. Le poche città che ho visitato, Buenos Aires, Rosario, Santiago del Estero, Salta e Tucumán, mi sono piaciute molto, pur nella loro decadenza, espressione di un passato glorioso, ma anche di un futuro che tarda ad arrivare. Anche i paesini mi hanno sempre regalato immagini preziose che fatico a scordare. C'è sempre una bella piazza centrale con i giardini pubblici, la stazione ferroviaria, spesso in disuso, sterminati terreni coltivati che li circondano. Mi ricorderò delle migliori bistecche alla brace, degli gnocchi e della pizza, entrati con gli immigrati italiani nella tradizione culinaria argentina. Mi ricorderò della musica, dal tango alla chacarrera, passando per il rock, il punk, il pop, la cumbia argentina, la cui produzione locale è assolutamente ricchissima. Delle persone, moltissime di origine europea, emigrate appena 3, 4, 5 generazioni fa. In un mese e mezzo di permanenza ho sviluppato diverse amicizie, sincere, spontanee, che ho subito sentito poter convergere in qualcosa di profondo. È stato un viaggio totale questo in Argentina. Mi sono reso conto di essere in un paese straordinario da subito, appena 24 ore dal mio ingresso nel paese. Infatti, in qualsiasi bagno c'è il bidet, il che mi fa sentire sempre a mio agio. Va per largo, no? finisce qui la prima parte di questo racconto di viaggio in bicicletta tra Buenos Aires e Lima in 3 mesi e 5.000 km. Questo infatti è stato l'ultimo episodio nel quale vi ho raccontato dell'Argentina. Dalla prossima puntata sarò in Bolivia, paese nel quale ho passato un mese e pedalato con estrema fatica per 1.288 km. Dopo qualche istante di musica, vi lascio con la prima intervista che ho registrato in Bolivia. Sentirete la voce di Silvia Rivera Cusicanqui, sociologa, attivista, teorica e storica contemporanea boliviana. Ci parlerà dell'organizzazione nella quale milita e che ha contribuito a fondare, il collettivo XI. Restate all'ascolto di Spazio Estate Viaggi e di Radio Onda d'Urto. Quando 20 anni tenia la pelle in tre poco, con muago me lo bevi. Vamos. Allora, primero che chiedia che se presente muy brevemente, non che mi cuento la storia della sua vita, penso. Bueno, muy brevemente. Me llamo Silvia Rivera Cusicanqui, soy profesora jubilada, tengo 73 años y bene. Mi chiamo Silvia Rivera Cusicanqui e sono una professoressa. Ho 73 anni e da quando sono pensionata stiamo facendo un lavoro di autogestione con un gruppo che chiamiamo Collettivo XI. Questo gruppo ha già 11 anni di vita e attualmente rappresenta la mia principale attività. La ragione per cui abbiamo optato per un lavoro minimalista, micropolitico, umile, è che tutti i grandi movimenti sociali che ci sono stati, le cui lotte sono state molto forti, a partire dall'anno 2000, sono stati completamente inglobati dal governo della Bolivia. Si sono trasformati in entità corporative senza nessuna autonomia e servono solo per legittimare il governo del MAS, Movimento al Socialismo, il che è molto patetico perché non rappresentano più le aspirazioni della gente. Ed è per questo che abbiamo deciso, come molti altri collettivi, di fare politica in piccolo, dal basso. Trattiamo principalmente alcuni temi, come per esempio il rapporto tra l'ambiente e la dipendenza che abbiamo in città dal lavoro agricolo. Anche per questo noi stiamo fomentando l'agricoltura urbana e facciamo un mercato ogni sabato. Io credo che abbiamo un certo impatto, piccolo, per il nostro quartiere e ciò ci garantisce una retroalimentazione permanente. Nos da una retroalimentazione permanente, cosa che è molto frustrante lavorare con le organizzazioni sociali. È molto frustrante lavorare con le organizzazioni sociali perché hanno semplicemente adottato una posizione corporativa in cui nessuno è libero di avere una propria opinione. Cioè, quello che dice l'organizzazione è legge. E in questo modo molta gente è silenziata perché l'organizzazione è di fatto dipendente dal governo. Perciò è molto frustrante, però siamo sempre stati bene all'interno di alcune mobilitazioni. Per esempio abbiamo accompagnato la lotta del Tepnis. Eravamo presenti già dalla vigilia e io sono rimasta 30 giorni accompagnando i cortei. Quindi abbiamo appoggiato anche questo tipo di cose. Abbiamo aiutato i diversamente abili e in generale gli agricoltori urbani. Quindi, se piccole cose, anche noi appoggiamo i discapacitati e in generale gli agricoltori urbani. Da chi è stato fondato il collettivo XI? Quali sono le attività che realizza? Di cosa si occupa storicamente e in questo momento? Quali sono le attività che realizza e di che si occupa? Il colectivo históricamente e in ese momento. Claro, en 2010 una amiga mía que vive hace 50 años en Estados Unidos vino y me mostró. Nel 2010 una mia amica che vive da 50 anni negli Stati Uniti è venuta da me e mi ha mostrato che aveva un rudere, un terreno fatiscente, invaso da gente, da cani, eccetera. Qui ci ha affidato il terreno. io avevo un gran gruppo di studenti e stavamo editando una rivista chiamata Il Collettivo. Avevamo anche creato un catalogo dissidente per l'esposizione della Reina Sofia. Con queste premesse, con i miei studenti e dottorandi, ci siamo presi la responsabilità di questo spazio e tutte le settimane lavoravamo fisicamente. Abbiamo tolto mattoni, pulito tutto lo spazio, costruito una casa molto bella, abbiamo seminato orti e la gente che stava invadendo lo spazio se n'è andata. E la signora proprietaria non è mai più venuta a reclamare la sua proprietà. Quindi siamo una specie di occupanti a bassa intensità, perché nessuno ci disturba e noi stiamo lì. È un terreno di 800 metri, in un posto molto centrale e molto popolare. Reclamarnos, ¿no? Entonces es una especie de ocupa de baja intensidad, ¿no? Porque nadie nos molesta y estamos ahí. Entonces es un terreno de 800 metros en un lugar muy céntrico, muy popular. Y claro, a mí me han jubilado a la fuerza. Io sono stata pensionata forzatamente per una serie di questioni politiche all'interno della sinistra, del Partito Socialista, e tutta questa gente. Così mi sono trovata senza lezioni e abbiamo creato una cattedra libera. Ogni anno organizziamo almeno 3 seminari, a volte di più. Il seminario principale è Sociologia dell'immagine, di cui mi occupo. È basato su un mio libro che si chiama appunto Sociologia dell'immagine, pubblicato a Buenos Aires. Poi c'è un corso che diamo 2 volte l'anno sull'anarchismo, con differenti letture sul tema. C'è anche un corso di cultura alimentaria in cui si impara a coltivare, a preparare il compost in casa, eccetera. Quindi c'è tutta una dinamica che si basa su queste 3 dimensioni molto creative e da 8 anni che diamo il corso. Ed è una cosa impressionante, vengono dal Brasile, dall'Argentina, dal Messico, vengono con mezzi propri, non ci sono borse di studio, niente. Il corso è abbastanza economico, costa 400 bolivianos, che sono circa 60 euro, ed è un corso intensivo di 1 mese. Si tratta di un'esperienza straordinaria. ...di Argentina, di Messico, viene per su cuenta. Non hay beca, non hay nada, se pagan su estadía. Il corso è abbastanza barato, costa 400 bolivianos. Inoltre abbiamo il più grande archivio anarchista in Bolivia. Questo perché abbiamo fatto un lavoro molto minuzioso con gli ultimi sopravvissuti della Federazione Operaia Locale degli anni 20 e 30. Erano molto vecchi, li abbiamo registrati prima che morissero. Così abbiamo riscattato una storia che era stata negata, diffamata, per colpa della sinistra che ha screditato la storia anarchista. Y bueno, hemos rescatado una historia que estaba negada, difamada, mentira. O sea, la izquierda ha echado mierda sobre la historia anarquista. Y los anarcos han sido extraordinarios y nos han dado la gran enseñanza de la autogestión, ¿no? De no depender de platas, de subvenciones ni nada. Y eso es lo que hemos E gli anarchisti sono stati straordinari, ci hanno regalato l'insegnamento dell'autogestione, non dipendere dal denaro, dalle sovvenzioni, né niente di tutto ciò. E noi abbiamo applicato questo insegnamento nel collettivo. È una questione di autogestione, i compagni danno lezioni, ci sono stati corsi degli Aymara, corsi di manualità, di orto urbano. Ci sembra una cosa molto soddisfacente che uno faccia ciò che crede, senza dover aspettare che ci siano grandi cambiamenti strutturali per essere felici. Da dove viene l'interesse e l'orientamento verso l'anarchismo? Per l'anarchismo? Mm-hmm. Bueno, viene de mis peleas con la izquierda quando io tenía 20 años, che io erano machistas, autoritarios. Viene dai miei scontri con la sinistra da quando avevo 20 anni. Erano maschilisti autoritari e con l'incontro con i vecchietti sopravvissuti volevamo scrivere la storia del movimento operaio e non sapevamo neanche che era così importante l'anarchismo. Però quando abbiamo iniziato a srotolare il filo è apparso un mio prozio, Luis Cusicanqui, uno dei più grandi ideologi dell'anarchismo. parlava aimara come prima lingua, quindi un anarchista aimara. Per me era come il sogno fatto realtà, perché io prima avevo lavorato tanto sul movimento indigeno. Quindi indigeno e anarchista era una combinazione perfetta. Allora abbiamo creato un libro, vari video e adesso continuiamo a diffondere tutto questo. No hay un movimiento anarquista que esté con los obreros, para nada, no hay. Pero hay... Qui non c'è un movimento anarchista che stia con gli operai, per niente, non esiste. Però c'è nella gente giovane una cultura anarchista, una cultura antifiscale, antistatale, antipartitica. Claro, eran muy doctrinarios. Entonces tenían casi lo mismo que el marxismo. Chiaro, il fatto è che gli anarchisti di un tempo erano molto dottrinali, avevano lo stesso problema dei marxisti, era tutto un fare scuola, insegnare i grandi libri. Però l'anarchismo in Bolivia ha avuto una posizione decisamente indigena, si sommava a secoli di lotta antifiscale da parte dei gruppi, delle comunità. Per questo quello boliviano è un anarchismo molto specifico. Non si è trattato di una ripetizione delle influenze dall'Italia o dall'Argentina. È un anarchismo molto particolare e ci viene molto bene per giustificare il nostro rifiuto all'inquietudine dello Stato di controllare tutto e specialmente i movimenti. Nuestro rechazo al afán que tiene el Estado de controlar todo, ¿no? De controlar todos los movimientos. Ho visto che il collettivo XI organizza molti eventi ed è uno spazio dove si pratica l'economia solidale, l'autogestione comunitaria, la salvaguardia dell'ambiente. Mi racconta un po' cosa succede in pratica durante questi eventi? Bueno, en pratica lo que tenemos, bueno, somos anarquistas chejes porque somos manchados con otras dinámicas. Siamo anarchisti, sì. Per questo siamo macchiati da altre dinamiche. Anzitutto gli anarchisti sono sempre stati molto atei e antireligiosi, però noi siamo devoti alla Pachamama, la madre terra, insieme agli indigeni. Abbiamo un calendario in cui segnaliamo i solstizi d'inverno ed estate. Pratichiamo un culto nei confronti dei cadaveri, dei morti. Celebriamo la Candelaria, che è l'inizio della semina. E pratichiamo tutti i rituali della semina e della raccolta. Quindi c'è tutta questa questione della spiritualità e contemporaneamente il materialismo anarchico. Materialismo anarco, no? Eso. Luego, en ese ciclo annual, poi in questo ciclo annuale, tutte le settimane abbiamo un giorno in cui facciamo ciò che c'è da fare, cioè innaffiare le piante, togliere le erbacce, seminare. Raccogliere. La terra ci ha dato delle patate deliziose, abbiamo un compost meraviglioso, alberi da frutta, è una gioia. Vendiamo marmellata e anche altri prodotti. Si tratta di una specie di quotidianità senza grandi aspirazioni. Però di questo si tratta. La nostra vendetta è essere felici, come dice Maria Galindo, cioè la felicità di lavorare la terra, di fare amicizia e soprattutto di coinvolgere altre persone. Ossia, la felicità che abbiamo di lavorare con la terra, di fare amicizia. Ora sono comparse alcune compagne in una riunione in cui le signore indigene si lamentavano del fatto che le cacciavano dal mercato. Quindi le abbiamo detto: venite al campo. E abbiamo creato tutto uno spazio per loro e ogni sabato c'è il mercato. Allora vengono le signore produttrici con del cibo delizioso. Molta gente del quartiere, che era un po' infastidita dai concerti che organizziamo, perché c'è un gruppo punk anarchico che fa abbastanza rumore, ora viene e compra le verdure. Noi, per non disturbare troppo con il punk, lo alterniamo con musica tradizionale andina. Punk anarchistas che sono hacen bastante bulla. Entonces ahora les encanta por lo menos venir a comprar las verduras. Ecco, questa è la nostra attività. È modesta, piccolina, però per me è molto soddisfacente avere la possibilità di fare cose piccole, però che danno qualcosa alla gente. Questa è la nostra attività. È molto modesta, è molto chiquita. Pero para mí es muy satisfactorio tener la posibilidad de Vedi persone che hanno trovato un corso e poi si lanciano con il proprio progetto di arte o di performance, cose molto interessanti. L'importante è non separare l'arte dalla vita e dalla politica, o meglio, dalla micropolitica. Ah sì, e perché? Per questa piccola irradiazione della coscienza che si ottiene attraverso l'arte. Per esempio, ci sono molte compagne che fanno serigrafia, creano slogan, tutta una diffusione di tematiche ideologiche, organizzano corsi di serigrafia, riciclano la carta. Grazie a tutto ciò, a questa specie di artigianato, si genera una creatività politica, una capacità di porre questioni con ironia, con umore. Se genera una creatività politica, una capacità di questionare, però con ironia, con umore. A proposito di Maria Galindo, qualche tempo fa ha partecipato a un seminario insieme a lei, un incontro in cui si parlava di femminismo campesino, popolare e comunitario. Qual è la particolarità di questo tipo di femminismo? Io non so, mira, io ho sido femminista pratica. Nunca, o sea, claro, he leído lo básico, pero nunca he militado en organizaciones feministas, en organizaciones, nunca. Non saprei, io sono una femminista pratica, certo, ho letto le cose basilari, però non ho mai militato in un'organizzazione femminista, mai. Ho sempre pensato che noi donne possiamo parlare di tutto, senza limiti, perché il problema di molti gruppi femministi è che si occupano solo delle donne, e io credo che la liberazione delle donne dipende molto da ciò che facciamo con gli uomini, anche perché loro sono il problema. De quattro figli, no? Che sono già grandi. Entonces... Mi considero una femminista pratica, sono madre nubile con quattro figli che sono già grandi. Per questo la mia visione è sempre stata così, pratica. Per questo mi sono trovata bene con Maria Galindo. Voglio dire, Maria supplisce in teoria e riflessione tutto ciò che a me manca. Si tratta di una comunità di affinità. Nel nostro collettivo siamo circa 18 persone e siamo un gruppo di affinità che si suddivide per affinità. Siamo un gruppo di affinità che si suddivide in affinità. Mi piacerebbe che spiegasse al pubblico italiano il concetto di multiculturalismo e meticciato e come lo ha sviluppato arrivando poi al concetto di XI. Il mestizaggio ha sido una politica statale. Tanto in Bolivia come in vari altri paesi dell'America Latina, quizás no della. Il meticciato è stata una politica statale sia in Bolivia che in altri vari paesi dell'America Latina. Forse non dell'Argentina, perché parlare di meticci in Argentina è già qualcosa di strano, perché loro si sentono europei. Però qui è stata un'ideologia ufficiale e lo presentano come una fusione e un terzo elemento nuovo che supera le contraddizioni tra bianchi e indios. Mi sembra una versione conciliante e in fin dei conti colonialista. Ciò che ho proposto io è la necessità di decolonizzare il meticciato, quindi il processo di decolonizzazione deve iniziare dal riconoscimento di una contraddizione insormontabile tra ciò che è europeo e ciò che è indio. Come? Epistemicamente. Si tratta di due maniere di vedere il mondo, di conoscere il mondo. L'idea è che non si fondono mai, ma che dal loro scontro e dalle loro contraddizioni si formi una potenziale energia decolonizzatrice, che è quella che ci permette di recuperare il nostro lato indio, renderlo più forte, visto che è stato sempre il più calpestato della nostra soggettività, e a questo punto equipararlo con quello europeo. Ora, dal lato europeo è necessario riscattare la lotta per il lavoro, i diritti umani, i diritti individuali, i diritti della donna, l'anarchismo, tutto ciò ha una radice europea. Però bisogna togliere tutta questa patina per la quale la diversità può essere solo consumo di cose differenti. Il libero arbitrio può essere solo scegliere la marca di scarpe e non si può scegliere niente di sostanziale. Togliere tutti questi stracci capitalisti dal contributo dell'Europa. Questo è ciò a cui io punto. La filosofia di Spinoza. ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con esta idea de, lo, de la fuerza que de la fuerza de la vida. La filosofia di Spinoza credo che abbia molto a che fare con questa idea della forza della vita. Però questa parte è stata da una parte erettita dai lacci capitalisti e dall'altra nascosta dalla vista. Quindi depurare questa eredità europea e contemporaneamente fomentare una visione di ciò che è indio, non parlo del colore della pelle o dei vestiti e neanche dell'idioma, ma dell'episteme. Consideras que hay sujetos no humanos. Le das subjetivo. Questo implica che, per esempio, tu dovresti considerare l'esistenza di soggetti non umani. Dare una soggettività alle pietre, alle colline, al lago, al fiume, alle piante, agli animali, al condor, alla montagna, tutti loro hanno una soggettività. Questa è la prima caratteristica fondamentale di ciò che è indio. Il secondo tratto è, secondo me, che i morti vivono, che i morti non sono morti, ma tornano ogni anno a visitare i vivi e influiscono sulla vita dei vivi. Poi, l'altra parte dell'episteme, India, è la tendenza a cercare e creare relazioni comunitarie. E infine, l'apprendimento di un idioma nativo. Io parlo Aymara come seconda lingua. È fondamentale per decolonizzarsi. Quindi queste quattro cose, secondo la mia opinione, possono elevare gli indios alla pari con gli spagnoli, con gli europei e creare un contatto molto fertile, perché si producono scintille che sono un'energia decolonizzatrice. Questo è quello che io penso del Xi, la possibilità di vivere in mezzo ai contrari senza diventare schizofrenico. In mezzo dei contrari, senza volversi schizofrenico. Passiamo ad un altro tema. Lei ha appoggiato le lotte cocaleras e la campagna per la depenalizzazione delle foglie di coca. Perché è stato così importante appoggiare questo tipo di lotta? Bueno, porque es una planta indígena que tiene más calcio que la leche, más fosforo que el pescado. Beh, perché è una pianta indigena che contiene più calcio che il latte, più fosforo che il pesce. Grazie a lei si può combattere il diabete e altrettante malattie mangiandola. E tra l'altro aiuta anche un poco i problemi di depressione. Insomma, possiede molte virtù. Coca buena igual cocaina buena. È chiaro, all'inizio si pensava coca buona uguale cocaina buona e adesso è coca cattiva uguale cocaina cattiva. D'altra parte, chi pagava le problematiche erano sempre i più deboli, i produttori, gli agricoltori, però nessuno si concentrava sui grandi trafficanti e ancora meno il trafficante di Miami o di San Diego. Allora si trattava di una lotta antiimperialista, culturale, indigena. Però è arrivato un momento critico perché i cocaleros hanno rovinato i terreni, piano piano si sono espansi e sono arrivati alla zona indigena del Tijing e allora c'è stato un disboscamento lì e io mi sono messa dalla parte degli indigeni del Tijing e mi sono allontanata dalla lotta per la coca anche perché, tra l'altro, a questo governo non interessa per niente che la coca si mangi o beva in bibite o nel vino, no. Preferiscono far sì che si continui con il narcotraffico. Infatti questo è il problema. Come si può allora minimizzare il danno della coca quando è trasformata in droga? È strano, però la coca è un antidoto contro la cocaina. Io ho un figlio giovane che ha una tendenza feroce alla dipendenza, però mastica coca e questo lo ha liberato dalla cocaina. Adesso non gli interessa la cocaina. Io credo che si possa usare anche come modo di curare le dipendenze, però soprattutto come alimento. La coca è potentissima, io ho le ossa dure e mastico coca da anni. Tutto ha un suo senso, però a questo governo non interessa. Quindi lei dice la responsabilità è dei governi, promuovere una produzione finalizzata ad un uso sano, responsabile, sostenibile e via dicendo. Chiaro. dovrebbe essere tutta una politica. Però è incredibile che nonostante il presidente sia un cocalero, non si siano fatti progressi in questo senso. Certo, e se non si sono fatti progressi con un presidente cocalero, come si potranno fare con presidenti che non lo sono? Non lo so, però io credo che in questo momento la politica è molto lontana dalla gente. Non gli interessa essere incisivi sulla vita della gente. Per esempio, la pratica dell'acuglico. L'acuglico, la masticazione della coca, è una pratica, un'abitudine sociale, rituale e medicinale, in cui una piccola palla di foglie di coca viene posta in bocca tra la guancia e la mandibola, che viene masticata in alcune aree del Sud America come la Bolivia, il Perù, Argentina e Cile e nelle riserve indigene di Ecuador e Colombia. Si usa per evitare o diminuire gli effetti dello stordimento causato dalla mancanza di ossigeno nell'atmosfera ad alta quota e per ridurre gli effetti di stanchezza, fame e indigestione. Nonostante lo stigma così forte che aveva questa pratica, io lo stesso masticavo in pubblico, mi intervistavano in televisione e mangiavo coca. Ho trasmesso questa abitudine a molti amici e compagni. È un'abitudine molto sana. Trasmitido, digamos, el hábito y es muy sano. Entonces, es muy justo el trato con las plantas, que además en la Convención de Viena è molto ingiusto il trattamento verso la pianta. Anche perché nella Convenzione di Vienna si trovano sullo stesso piano il papavero da oppio, la marijuana e la coca. Quindi depenalizzarne una significherebbe depenalizzarne tutte. E il caso dell'eroina è molto complicato, è una lotta molto difficile, però almeno qui si può masticare coca. Grazie a Silvia Rivera Cusicanchi. Per concludere l'intervista, vuole aggiungere qualcosa sul collettivo XI e sul suo lavoro? Non so, mi hai già posto tante domande, non saprei. Semplicemente io sento che noi siamo solo uno tra i tanti gruppi che hanno deciso di fare autogestione, micropolitica, agricoltura urbana, dimenticando la macropolitica e le lotte elettorali. Quindi io credo che siamo parte di un'onda di gente che non aspetta di riunirsi in un partito, ma che pensa nel cambiamento. Fare che il mondo sia più vivibile con ciò che abbiamo vicino a noi, adesso, e non quando arriverà forse una rivoluzione. Si tratta di una politica che ti permette di avanzare, però, senza la necessità di grandi mete, piuttosto poco a poco, con calma. Questo è il messaggio che vorrei lasciare. È una politica che ti permette di avanzare, però sin grandi mete, poco a poco. Es un mensaje más. Sí, sí. Puerta que me dejaste. Ya pues. Muchas gracias. Que te vaya bien. Bentornati in studio, Spazio Estate, avete ascoltato l'intervista a Silvia Rivera Cusicanqui del collettivo XI di La Paz. La sesta puntata di Spazio Estate Viaggi continua. Dopo questo pezzo di Trueno, intitolato Dance Creep, la linea passerà alla rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina, a cura di Mirko. Buon proseguimento e buon ascolto sulle nostre e vostre frequenze. Quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up. Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Ah, yeah. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo, dejo por América la panamericana. Shake em up, shake em up, baby. Mami, el vocero soy yo. Yes, I'll be. la cara de los jóvenes del país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado en la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance creep. State ascoltando Spazio Estate, un programma Don Pierce sulla frequenza di Radio, Radio Onda Adulto, Radio, Radio Onda Adulto. Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Oggi parliamo di Cristina Peri Rossi, la scrittrice uruguaia, amica di Julio Cortázar, esule di lungo corso, nella sua opera spiccano i temi dell'esilio e della sessualità. È stata premiata col premio Cervantes nel 2018. Cristina Peri Rossi è nata il 12 novembre 1941 a Montevideo, in Uruguay, prima di due figlie in una famiglia di immigrati italiani, anche se in casa si parlava solo spagnolo. Il padre, Ambrosio Peri, operaio tessile, è morto quando lei era giovane, anche se questo evento non sembra aver influenzato la vita della figlia. La madre, Giulietta Rossi, insegnante, riconobbe presto il talento della figlia per la scrittura e fu una fonte di ispirazione per la sua carriera. Peri Rossi aveva anche uno stretto rapporto con lo zio, scapolo, comunista e proprietario di una biblioteca. Di fatto, a causa della situazione economica della sua famiglia, si affidava molto alle biblioteche per la lettura. In un'intervista rivela che era solita leggere nelle biblioteche, perché non poteva permettersi di comprare i libri in libreria. A 16 anni si reca alla Biblioteca Nazionale, dove legge Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. Ha frequentato una scuola elementare pubblica e poi il liceo pubblico Rodò, dove ha anche compiuto studi preuniversitari tra il 1958 e il 1960. Nello stesso anno è stata ammessa all'Istituto de Profesores Artigas, un istituto di istruzione terziaria dove si formano gli insegnanti. Qui si è dedicata alla letteratura comparata e all'insegnamento a livello preuniversitario. Ottenuta la cattedra nel 1964, insegnò in varie istituzioni per i successivi 11 anni, fino all'esilio. Parallelamente alla carriera di insegnante, si sviluppava quella di scrittrice. Ha pubblicato la sua prima opera nel 1963, Viviendo, una raccolta di racconti. Il secondo, dello stesso genere, Los Museos Abandonados, i musei abbandonati, è stato pubblicato nel 1969. Il suo primo romanzo, El libro de mis primos, il libro dei miei cugini, è stato pubblicato nello stesso anno. Dopo queste pubblicazioni inizia a essere riconosciuta come una delle scrittrici più importanti della sua generazione, con riconoscimenti come il premio Arca per i giovani del 68 per i musei abbandonati e il premio Marcia per il libro dei miei cugini nel 69. Queste opere e altre pubblicate fino al suo esilio nel 72 incorporano progressivamente una carica più ideologica legata alla gravità della situazione politica alla vigilia del colpo di stato militare. Nel frattempo Peri Rossi si è unita alla coalizione di sinistra Frente Amplio come membro indipendente. Questa relazione, insieme alla sua partecipazione al settimanale Marcia, chiuso dai militari nel 1974, e al giornale El Popular, allora comunista, ha provocato minacce alla sua vita. All'età di 31 anni, il suo attivismo politico l'ha spinta a fuggire in Spagna, dove si è stabilita. Il 4 ottobre 1972 è andata in esilio in Spagna, dove vive da allora. Tuttavia, al principio ha dovuto rifugiarsi a Parigi con l'aiuto dell'amico Julio Cortázar, quando nel 1974 il governo spagnolo collaborò con quello uruguaio per rifiutare la concessione del passaporto spagnolo. A Parigi rimase per un paio d'anni. Al suo ritorno in Spagna ha ottenuto la cittadinanza spagnola nel 1975, anche se nel 1985 ha ottenuto nuovamente la cittadinanza uruguaia. Attualmente possiede entrambe le nazionalità. Con l'avvento della democrazia in Uruguay ha preso in considerazione l'idea di tornare nel suo paese, ma ha scelto di rimanere in Spagna, anche se lì non si è mai sentita a suo agio. Tuttavia, insiste sul fatto che uno scrittore deve sentirsi a disagio per poter scrivere bene. L'esilio ha influenzato non solo sulla sua scrittura, ma anche sui rapporti con gli altri scrittori. A Barcellona ha conosciuto scrittrici come Ana Maria Moix, Montserrat Roig ed Esther Tusquet. Questa esperienza ha indubbiamente segnato una svolta, non solo nella sua vita, ma anche nel suo lavoro e nella sua opera. Nella sua produzione, sia poetica che narrativa, il tema dell'esilio è insistentemente trattato, sia in modo esplicito che attraverso diverse figurazioni. Nel primo caso, le aree in cui questa problematica è esplicita è, ad esempio, la raccolta di poesie intitolata Estado de Exilio, Stato di Esilio, che ha scritto nel 1973. Nel suo prologo afferma che l'esilio gli ha chiesto la parola, le ha chiesto di scrivere, le ha chiesto di fissare le sue emozioni. Il risultato sono le poesie incluse in quel libro. D'altra parte ci sono le sue cronache giornalistiche, soprattutto quelle pubblicate tra il 1978 e il 1983, in cui il tema dell'esilio è anch'esso esplicitamente affrontato, come dimostra ancora una volta il loro titolo. Una di esse ha lo stesso titolo della raccolta di poesie, Estado de Exilio, mentre l'altra si intitola Los Exilios. Questo aspetto, tuttavia, in alcune opere viene proiettato attraverso varie figurazioni. Una di queste, la più ricorrente, è l'immagine dello straniero, riconoscibile in gran parte dei suoi testi, come nel romanzo La nave de los locos del 1984 o nel racconto En la playa del 1976. In relazione a questo tema, vale la pena notare che la decisione della giuria del premio Cervantes ha sottolineato, tra l'altro, che la sua opera costituisce un richiamo perpetuo all'esilio e alle tragedie politiche del XX secolo. Quando è caduta la dittatura, mi sono resa conto che avevo vissuto 14 anni con la nostalgia di Montevideo, una nostalgia orribile, e ora non me la sentivo di avere nostalgia di Barcellona. Se devo avere nostalgia, preferisco avere sempre la stessa. Inoltre, non si va in esilio perché si vuole, si va in esilio perché si deve salvare la pelle, e credo che, all'interno di quella folle geometria che è la vita, a un atto involontario, non si debba rispondere con un atto volontario come il ritorno. A rigore non si può tornare indietro perché è un tempo che non esiste più. L'altro tema ricorrente delle opere di Cristina Peri-Rossi è la condizione della donna. Fin da bambina ha pensato di voler diventare una scrittrice, nonostante l'incomprensione del suo ambiente. Secondo quanto racconta, all'età di 6 anni, in occasione di una grande riunione di famiglia, salì su una sedia e disse: «Diventerò una scrittrice», suscitando uno scandalo. Nel contesto degli anni 40, infatti, questa scelta implicava un sovvertimento dei ruoli e degli spazi associati al genere femminile. In questo senso, nelle sue produzioni, c'è una riflessione permanente sull'essere donna, una questione che è stata sottolineata anche dalla giuria del Premio Cervantes, quando questa ha descritto il suo lavoro come un esercizio costante di esplorazione e di critica, senza rinunciare al valore dell'esperienza come espressione di un impegno nei confronti di questioni chiave della conversazione contemporanea, come la condizione della donna e la sessualità. L'amore tra donne è una presenza ricorrente, soprattutto nella sua poesia, come si evince, ad esempio, nella poesia Tercera Estación, Campo de San Barnaba, da Linguistica General del 1979. Stasera, tra tutti i normali, ti invito ad attraversare il ponte. Ci guarderanno con curiosità queste due ragazze e forse, se saremo abbastanza sagge, discrete e sottili, perdoneranno la nostra sovversione, senza bisogno di chiamare il medico, il commissario politico o il prete. In questi versi, attraverso un tono ironico, il legame d'amore è presentato come sovversivo, passibile di essere punito dalla medicina, dalla politica o dalla religione. La figura della donna predomina anche in altre poesie, come in Genealogia, dedicata a Saffo e Virginia Woolf, sue dolci antenate. In esso l'autrice traccia una sorta di stirpe di scrittrici, il cui comune denominatore è stato quello di sfidare la biologia elementare che rende una donna una partoriente, per seguire invece il suo desiderio, nonostante le difficoltà che questa scelta comporta. D'altra parte, vale la pena di notare che alcune delle sue cronache giornalistiche, pubblicate sui giornali spagnoli, affrontano precocemente diversi temi che oggi fanno parte dell'agenda femminista, come il diritto all'aborto in Quien quiere matar a Nacho del 1983, l'oggettivazione del corpo femminile in El silencio del cuerpo de la mujer del 1987, o il femminicidio in Un país peligroso para las mujeres del 1988. Questo tema è presentato con un tono crudo e potente anche nella poesia Condición de Mujer, in cui l'autrice si riferisce alle donne di Juárez, cioè a quelle assassinate a Ciudad Juárez in Messico. Cristina Per i Rossi ha lavorato su diversi generi, come il racconto, il romanzo, la cronaca giornalistica e la poesia. In essi, attraverso la particolarità imposte da ogni tipo di testo, emergono con insistenza temi come l'esilio, l'amore, l'erotismo, la psicoanalisi e l'infanzia. Tutto questo si dispiega in un registro lucido e ironico, sotto una scrittura furiosa e preziosa, che, lungi dal fissare significati, si impegna al contrario all'apertura. Questo si riconosce, ad esempio, nel suo romanzo La nave de los locos, in cui si stabiliscono inesauribili legami, connessioni e dialoghi, contestualità e tradizioni eterogenee, come quelle greco-latine, giudaico-cristiane, il tango, il jazz, la letteratura latinoamericana, il cinema, le opere pittoriche, un poema del XV secolo, fra le altre. L'autrice manipola molteplici e diverse testualità, discorsi, tradizioni, che poi inserisce nei suoi testi per ricontestualizzarli, per dare loro una nuova funzione. Il lavoro di Per i Rossi propone una sfida permanente ai discorsi e alle convenzioni sociali. Tenta di smontare e decostruire ordini e strutture fisse e cristallizzate. Così, il suo progetto estetico-ideologico è definito dalla resistenza e dalla dissidenza di fronte a pensieri e categorie normativizzanti, di fronte a modelli e pensieri ereditari. I suoi testi mostrano un trattamento attento del linguaggio. Ogni parola è scritta, ma anche, come si legge nei versi di Leyendo il dizionario, è pronunciata, sentita, tracciata, racchiusa, leccata, accarezzata. Nell'universo dell'autrice, scrittura e vita sono assolutamente intrecciate. Lei stessa afferma che nei periodi di esilio la scrittura ha funzionato come una sorta di terapia. Mentre soffro per la paura di non poter più scrivere, in esilio scrivo. Mentre soffro il dolore, la lacerazione, scrivo. Questa idea è condensata nel titolo di una poesia pubblicata nel 2007, La mia casa è la scrittura. La prassi della scrittura è quindi concepita come un rifugio, come l'unico spazio in cui ci si può stabilire, o meglio, in cui ci si può salvare. Nel 2017, un giornalista del quotidiano spagnolo El País ha chiesto a Cristina Per i Rossi a chi avrebbe assegnato il prossimo premio Cervantes. Come una sorta di premonizione, la sua risposta è stata a Cristina Per i Rossi, perché possa continuare a scrivere. E così è stato. Parliamo lingue che non sono le nostre, andiamo in giro senza passaporto, scriviamo lettere disperate che non inviamo. Siamo numerosi e sfortunati intrusi, sopravvissuti, supervissuti, e a volte questo ci fa sentire in colpa. Dov'è la mia casa? Dove vivo? La mia casa è la scrittura, l'abito come la casa della figlia ribelle, la prodiga, quella che torna sempre per ritrovare i volti familiari, l'unico fuoco che non si estingue. Io sono l'emergente, l'inquietante, la disordinatrice dei sessi, la trasgreditrice. Parlo la lingua dei conquistatori, ma io dico il contrario di quello che dicono loro. Le opere di Cristina Per i Rossi, tradotte in italiano, sono poche. Segnalo Il Museo degli Sforzi Inutili, edito da Einaudi nel 1997. Le Difficoltà dell'Amore, edito da La Tartaruga nel 2006. il complesso cileno affisso sul muro. Promette spettacolo, un colpo sicuro. La musica andina che noia mortale, sono più di 3 anni che si ripete sempre uguale. E come di consueto chiudiamo la puntata di Spazio Estate Viaggi con il Cucciolo Alfredo di Lucio Dalla. In questo sesto episodio abbiamo ospitato Silvia Rivera Cusicanqui, attivista, sociologa, professoressa, teorica e storica contemporanea boliviana. La salutiamo. Un ringraziamento speciale anche a Carmela Longhin e a Monica Cordioli per averci prestato la voce in italiano nell'intervista. I saluti finali vanno anche a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici che ci hanno inviato i loro messaggi, anche audio, all'indirizzo Facebook e Instagram donpers.it. Continuate a scriverci e continuate a seguire Spazio Estate Viaggi in FM e sul sito www.radioondadurto.org. Mirko, che oggi vi ha presentato la scrittrice uruguaia Cristina Peri Rossi, tornerà la prossima settimana con la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Io sono Giacomo e tra una settimana riprenderò il mio racconto del viaggio in bici dalla Bolivia. Don Pierce Spazio Estate Viaggi torna prestissimo con una nuova puntata. Restate all'ascolto delle frequenze antagoniste del Gatto Nero. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, lo dijo Guillermo Shakespeare, poeta de infinitud. No se juega con la muerte, la tristeza o la luz. El mundo ha sobrevivido a la pobreza y la cruz, y sigue sobreviviendo, pañuelito en el azul. El hombre es un ser huraño, atrapado en el trasluz. El que en el mundo ha vivido, al cielo no ha de olvidar. Porque el amor y el olvido lo han venido a visitar. El amor vino del cielo, el olvido del más allá. Thank you. entre la vida y la muerte camina el hombre una vez y se salva con la suerte de perderse en la mujer. Entre la noche y el día despunta el amanecer. Amanecido yo he sido, atardecido también, y en las noches que he vivido me han matado alguna vez, pero yo he sobrevivido. Razón a Shakespeare, a Shakespeare, a Shakespeare.